Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. Questo sembra un po' il suono di un passato ormai irrecuperabile. Erano i Radiohead e cantavano, ragionavano, riflettevano, si mostravano, no? Attorno a questo mondo di una umanità che si andava tecnologizzando e così facendo si mutava, forse in modo irresistibile, forse in modo gravemente irrecuperabile, insomma, lo spirito, dove finiva, e c'era quest'uomo inerme, no? Di fronte alla macchina, la grande macchina che minacciava di divorarlo. Erano i tempi di Paranoid Android, appunto, di una visione così frontale e al tempo stesso spaurita del universo della tecnologia, che cambiava di nuovo le regole del universo dello spettacolo. E oggi proprio di queste cose vogliamo parlare, no? Perché se c'è un chiaro segno dei tempi è andato in onda proprio in questi ultimi giorni. Ora vi proporremo un paragone per ragionarci un po' sopra. Stiamo parlando di evoluzione del brand creativo, non inteso per marca o per autore, ma per intere famiglie di consumi culturali. Ovvero, nel XX secolo, fino alla fine del XX secolo, ci siamo abituati, quando avevamo voglia di arricchire la nostra cultura, ad avvicinare degli universi, quello della pittura, delle arti visive, del cinema, del teatro, della letteratura, che avevano acquisito una posizione primaria, erano consumi accertati, condivisi e in un certo senso dominanti. Adesso le cose stanno davvero cambiando, e forse se si lascia un po' da parte, no, la tentazione di moraleggiare, di fare no, una classificazione etica della qualità di questi consumi, ci rendiamo conto che semplicemente le cose cambiano. Prima, insomma, la grande emozione arrivava quando si sentiva una cosa così. I wake up at night seeing that man fall from the roof, and I try to reach out to him. It's just, it wasn't your fault. Do you believe that someone out of the past... Era Hitchcock, era una firma accertata, era un autore assoluto del cinema contemporaneo. Quando correvano gli anni 50-60, usciva un titolo attesissimo, annunciatissimo, formidabile come Vertigo, con Jimmy Stewart, con Kim Novak, con una nuova matrice narrativa che mescolava, che pescava qua e là, che contaminava, addirittura una parola che all'epoca non si utilizzava, e ci si emozionava. Se si era appassionati di cinema, quello era un momento importante, il momento importante di una stagione, di un'annata, e poi se ne discuteva, se ne scriveva, c'erano critiche, c'erano recensioni, c'erano confronti, dibattiti, addirittura litigate e lunghe passeggiate notturne con gli amici a parlare, per l'appunto, di cinema, o poteva essere di teatro. Oggi invece un evento paragonabile, no? Forse addirittura maggiore, all'uscita di un grandissimo film di Fellini o di Hitchcock, può essere semplicemente questo qui. In order to really create a new category of devices, those devices are going to have to be far better at doing some key tasks. They're going to have to be far better at doing some really important things. Sapete chi è questo signore? È il riveritissimo, insomma, in odore di divinità, Steve Jobs, Mr. Apple, Mr. Mac, chiamatelo come volete. Anzi, ultimamente mi sa che la tentazione di chiamarlo Mr. iPad, perché queste sono le parole che qualche giorno fa Steve Jobs ha pronunciato, annunciando ad un mondo adorante, in tensione, in aspettativa, con gran voglia di sapere, con una curiosità irresistibile, ha annunciato che cosa? Ha annunciato l'uscita di un nuovo computer, o di qualcosa che forse è un computer, forse non è più un computer, forse è anche un po' un telefonino, un'agendina elettronica, una macchina del caffè, insomma un attrezzo che fa un sacco di cose che ancora non abbiamo capito esattamente quali siano. Per non dire che ancora non abbiamo capito neanche esattamente a cosa poi ci serva e se tutto ciò ci serva, ma di fatto quello era l'evento Pensate un po', un signore, in fondo un commerciante, anche se al tempo stesso anche un po' scienziato, certamente anche un po' inventore, che presenta il suo nuovo prodotto, perché poi sostanzialmente lo vuole vendere, ne vende diversi milioni in tutti gli angoli del mondo dei suoi apparecchi, pensate all'iPhone, e adesso siamo tutti qua a sbirciare sui siti internet per capire quando esca l'iPad, perché da quel giorno in poi cominciano la tensione, l'aspettativa, il desiderio di consumi che diventano per l'appunto culturali, perché poi attorno a queste cose ormai, purtroppo, ma non so, forse questo è quel famoso moraleggiare di cui parlavo prima, attorno a queste cose ormai si ragiona esattamente come si ragionava un tempo attorno al nuovo film di Fellini, di cui difficilmente troverete poco più di una striminzita, no? Il corrispondente di Fellini, una striminzita recensione, qualche chiacchiera, qualche discorso, ma invece guardate le paginate, le prime pagine, i titoli di apertura dedicati alla nascita di che cosa? Di un computer che teoricamente dovrebbe aspettare noi poi per farlo funzionare e per metterci dentro qualcosa. Questi sono gli scenari che cambiano, questo era il discorso che ci interessava introdurre oggi. In questi scenari poi c'è un po' di tutto, per esempio c'è tanto gossip anche, no? C'è tanto scandalismo, è possibile che il gossip sia diventata oggi una arte contemporanea? Beh sì, è possibile, anche se farà brividire dirlo, ma di fatto tanta comunicazione con tempo si veicolava, tanta energia, tanta creatività, tanta rappresentazione con tempo si veicolava attraverso altre forme di informazione e di rappresentazione, oggi passa attraverso il culto della celebrità, e all'interno del culto della celebrità poi camminando si arriva perfino a parlare di pettegolezzi, saranno una frangia estrema ma sono comunque parte dello spettacolo. Le cose cambiano, come intendiamo dirvi, raccontarvi all'inizio, perché poi a anni 10 di questo ci occupiamo essenzialmente, no? Di come i consumi culturali, la voglia di consumare cose nuove che ci arricchiscano, però si possa modificare fino al punto da cambiare addirittura gli ambiti stessi di interesse. Per esempio, parlando di cinema. Allora dove andiamo? Ci allontaniamo dai cattivi? Non ho intenzione di lasciare a Selfridge o Quaritch la gestione nei minimi particolari. C'è una sala lì che... Parlando di cinema, adesso altro che vertigo guardando giù da quel famoso campanile, no? Kim Novak, cade, non cade. Adesso la vertigo si raggiungerà, ormai James Cameron l'ha detto, ne abbiamo anche già parlato, solo indossando occhialini 3D, che poi un bel giorno vedrete non ci serviranno neanche più. Quindi entrando dentro il film, facendo del film un mix reale con la vita. Questi sono passo dopo passo i consumi culturali di un decennio che si annuncia, lasciatemelo dire, almeno da questo punto di vista, elettrizzante. Thank you. Anni 10. Parole. Good afternoon. To Father Hesburgh, to Notre Dame trustees, to faculty, to family, I am honored to be here today. And desidero anche congratularmi con voi, laureati del 2009, per tutti i vostri risultati. E dal momento che questa è Notre Dame, è il 17 maggio 2009. Barack Obama sta pronunciando queste parole quando dagli spalti del Joyce Center, l'arena del basket dell'Università Cattolica Notre Dame nell'Indiana, si odono delle grida. L'aborto è un omicidio! Smettila di uccidere i nostri bambini! Il presidente non è sorpreso per l'interruzione. In realtà non lo è nessuno dei 12.000 presenti, molti dei quali coprono la protesta cantando Yes We Can e We Are ND, ovvero Siamo Noi Notre Dame. I manifestanti vengono raggiunti dalla polizia e accompagnati fuori dal palazzetto dello sport. Alcuni di loro verranno arrestati. È il drammatico epilogo di un terremoto che ha scosso in profondità il mondo cattolico americano. Un sisma di lunga durata che ha inizio il 20 marzo del 2009. Quel giorno, padre John E. Jenkins, presidente del più importante ateneo cattolico statunitense, annuncia che Barack Obama è stato invitato a tenere un discorso in occasione della cerimonia per la consegna delle lauree. Nella stessa occasione, riferisce padre Jenkins, al presidente americano sarà conferita la laurea honoris causa in legge. Lo spazio delle parole, parole scritte soprattutto qui a anni 10 inevitabilmente finisce per occuparsi spesso e volentieri di quello che è a tutti gli effetti per ora il protagonista, no, più sonoro, più visibile, più discusso di questo inizio di decennio, ovvero il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama, di cui si occupa per l'appunto anche con le righe che avete appena finito di ascoltare un nuovo libro a lui dedicato con un'angolazione particolare e specifica, firma di Alessandro Gisotti, che è un redattore del radiogiornale di Radio Vaticana, e in un saggio intitolato Dio e Obama, fede e politica alla Casa Bianca, che è stato un interrogativo che peraltro ci siamo tante volte posti anche qui a Radio 24 ai tempi di Jefferson, un interrogativo lungo quanto una campagna elettorale, e ricorderete è stata lunghissima, no? Dove si colloca Dio nella formidabile rincorsa di Obama alla Casa Bianca, che ruolo ha giocato nella sua elezione, dove si è collocato nei valori di quello che a un certo punto è diventato il neo presidente, insomma. La prima sensazione in effetti che si ricava studiando Barack Obama nel suo rapporto con la religione, la fede di Obama, che è stata così spesso poi proprio in primissimo piano nel suo tentativo, nella sua candidatura elettorale, è stata messa in discussione. Ricorderete la rovente polemica riguardante i rapporti di Obama con il suo reverendo, il pastore dell'anima di Barack e dei suoi familiari, quel Jeremiah Wright, caduto improvvisamente in disgrazia e in scandalo per dichiarazioni sonoramente anti-americane, e che Obama a tutti i modi, in tutte le maniere, ha cercato di non rinnegare fino a poi all'inevitabile distacco. Quel Jeremiah Wright, incarnazione di una religiosità afroamericana altamente polemica. Come è diventato poi un Obama presidente nel suo rapporto di presentarsi, no, quotidianamente agli americani anche come interprete della connessione divina di quella nazione che vuole Dio nel proprio progetto, ma poi ha sempre discusso, ha sempre faticato nel trovargli la migliore sistemazione possibile. Io direi che si tratta di un rapporto essenzialmente molto maturo, quello che Obama espone, molto adulto, evoluto, un rapporto con il sacro, con la fede, con Dio, che resta essenzialmente un rapporto intimo, non tanto un Dio sponsor, no? Non un Dio protettore, neanche un protettore degli eserciti americani in guerra, quanto un Dio a cui guardare nei momenti di bisogno di saggezza nelle scelte. È quello che peraltro sottolinea anche Gianfranco Fabi, il direttore di Radio 24, che ha curato l'introduzione di questo libro di Gisotti, scrive a un certo punto: il dio di Obama, scrive Fabi, è semplicemente un dio contemporaneo che parla all'uomo d'oggi e che propone non tanto delle certezze ma un cammino, un difficile cammino comunque di fede. Obama sempre questo ha esposto, non dei preconcetti, non delle certezze come altri presidenti in altri momenti hanno fatto, ma il bisogno di un interlocutore capace di fornirgli al momento necessario tutte quelle risposte di cui è in cerca. Il libro, vi ricordo ancora, di Alessandro Gisotti, si chiama Dio e Obama, fede e politica alla Casa Bianca, è pubblicato dalla Effata Editrice. Mica è facile dare una forma sonora, acustica, rappresentabile in radio al romanzo che in questi giorni ricorre ovunque e comunque, perché ne è scomparso il suo autore. Abbiamo fatto anche un piccolo omaggio la settimana scorsa a Jerry Salinger, che a 91 anni se n'è andato, ma resta questo giovane Holden con cui l'America, un po' tutto l'Occidente, vuole continuare a fare i conti. Però poi andate un po' a indagare, non c'è un film, no, tratto dal giovane Holden, non è mai stato possibile realizzarlo. Provate voi a chiedere i diritti a Salinger, vi accorgevate di come rispondeva. Ci sono tanti saggetti, tante cose fatte da studenti, tanti filmini indipendenti. C'è una canzone dei Guns N' Roses dedicata al Catcher in the Rye, che è quella che abbiamo appena ascoltato in sottofondo, e c'è anche un dibattito molto interessante, che è quello che vi vogliamo segnalare in questa sede, in cerca di parole per gli anni 10. Lo trovate sul sito del New York Times. È un dibattito lanciato dalla redazione del quotidiano di New York, che chiede semplicemente: ma insomma, cari signori, secondo voi il giovane Holden, The Catcher in the Rye, è ancora in sintonia con i ragazzi d'oggi? È rappresentativo? È simbolico? La sua alienazione, l'alienazione di Holden, è la stessa della generazione di Facebook? E nella fattispecie, in questa tavola rotonda, ci sono alcuni esperti che rispondono in modo stimolante, interessante. C'è Jay Parini, che è un romanziere, un poeta, insegna al Middlebury College, sostiene che secondo lui solo Mark Twain e Huckleberry Finn sono stati altrettanto rappresentativi della gioventù di sapore americano, che chi ha letto il giovane Holden non può certamente scordarselo, ma che rileggerlo oggi, se sei diventato adulto, può essere una esperienza assai deludente. Ci può essere il segno di un invecchiamento, di un essere datato, di turbamenti che poi in un certo senso sono stati scavalcati dalla stessa gravità della storia, dei fatti, delle problematiche che ci circondano tutto attorno. Poi c'è un intervento di Elizabeth Wurzel, che è l'autrice, ricorderete, di Prozac Nation, uno dei romanzi simbolo della generazione X, che dice che il libro secondo lei non è troppo invecchiato, la sua indignazione è ancora tutta lì, ben esposta, ma forse però non dà più quel conforto che poteva dare ai coetanei tanti anni fa, anche perché probabilmente i teenagers, intesi come li intendeva Salinger, non ci sono più. Lo stesso concetto di ribellione ha cambiato forma. E ci sono tanti altri interventi, ve ne cito almeno un altro, quello di Mark Bauerlein, che è un professore di inglese alla Emory University, che dice che invece secondo lui Holden ha fatto il suo tempo, i drammi del protagonista del libro ormai sono banali, l'autenticità è discutibile, la letterarietà del progetto è lì, bella in vista. A noi piacerebbe sapere anche da voi cosa ne pensate. Ricordate, abbiamo delle pagine Facebook che si chiamano Anni 10 e Anni 10 Radio 24. Se avete letto o riletto recentemente questo libro, che cosa ne avete ricavato, che sensazione ne avete ricavato, ci piacerebbe saperlo. Load up on guns, bring your friends, it's fun to lose and to pretend, she's overboard, myself assured. terza segnalazione, cara soprattutto, certamente interessante soprattutto per coloro che coltivarono il gusto, il culto della New York anni 60, anni 70 e tutto ciò che di soprattutto musicale ma poi anche artistico ne uscì in quello e nei decenni successivi e che poi adesso ha un po' cambiato forma, no? Con l'avvento di questa New York più parco a tema, più così tutta visualità in quelle quattro strade e grandi problemi invece nelle strade d'attorno. Patti Smith, che state ascoltando in sottofondo, ha pubblicato una sua biografia, autobiografia, si intitola Just Kids, titolo bellissimo, solo dei ragazzini, è pubblicata da HarperCollins, la trovate su qualsiasi sito internet ed è soprattutto una sezione biografica della vita di Patti Smith, raccontata in questo libro, quella del suo amore travolgente e anche così bello, no? Esteticamente quasi perfetto con Robert Mapplethorpe, che sarebbe poi diventato uno dei fotografi più amati, adorati, significativi non solo dello stile americano di fotografia ma in genere nel mondo, pensate soltanto all'universo della moda, del fashion. I due si incontrarono quando ancora tutto doveva cominciare, quando ancora tutto doveva succedere, quando erano in sostanza due sconosciuti, entrambi alla ricerca del successo che poi sarebbe arrivato attraverso strade diversissime, e viene rievocato senza nostalgia ma con grande tocco e anche con molta ironia e anche con un po' di piacionismo, diciamo, da Patti Smith. Insomma, dietro ogni angolo appaiono Salvatore Dalì, Allen Ginsberg, Sam Shepard, il Chelsea Hotel, dove tutti alla fine la sera andavano, che mica a dormire, andavano a fare ogni genere di trasgressione possibile e immaginabile. C'è naturalmente una New York straordinaria, c'è Patti Smith che ne esce, devo dire, anche oltre che come una artista di formidabile interesse, anche come una giornalista molto capace, una reporter, diciamo così, curiosa, divertente di se stessa. Burst from the barn in flames in a violent, violent against me. Your skull is like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And our blade is that lightning attack that some will make go crack. Some will make go crack. Some will make it go crack. Some will make it go crack. The palm trees fall into the sea. It doesn't matter much to me, as long as you're safe. Anni 10. Suoni. Just like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hands. Oh, it's a love. Insomma, il mandato di Anni 10 ormai l'avrete un po' capito, no? È fare un po' il vostro lavoro, il vostro sporco lavoro di cacciatori di momenti di piacere, di arricchimento, insomma, di cose belle da fare quando si ha un po' di tempo libero. Si tratti di sentire la musica, leggere libri, vedere qualcosa di interessante. Anni 10 va a cercare un po' sotto la superficie, no? Al di là del mainstream, delle cose che non potete fare a meno di sapere che ci sono, il nuovo libro di Vespa, Avatar, che ne so, il disco di Tiziano Ferro, beh, ce ne sono anche altri, e quelli, alcuni proviamo a sceglierli noi per voi e a segnalarveli, a farvi venire così l'idea, no, la piccola scintilla, e poi se vi va seguite il filo, anche utilizzando poi i nostri siti, insomma i modi che avete per connettervi, per ritrovare il nome, il titolo. Oggi parliamo di ragazze, oggi parliamo di tre ragazze inquiete, abbiamo deciso di metterle insieme perché un po' la cosa risuona sia nella biografia che nello stile di queste tre signore, giovani signore della musica, la prima delle quali avete appena ascoltato nel suo primo album, che fu anche la sua immediata rivelazione al mondo internazionale a musica. Si chiama Corinne Bailey Rae, una ragazza di Leeds, impegnata, figlia di genitori misti, cioè un papà caraibico, una mamma inglese, un periodo così piuttosto travagliato all'università, un matrimonio a 20 anni, poi faceva, no, ritirava i cappelli in un jazz club, a tarda notte le permettevano di cantare qualcosa, poco a poco la sua carriera è cominciata, un disco d'esordio formidabile, un botto fragoroso sia di qualità, di critica, di assenso che di vendite, e poi subito dopo una tragedia. Suo marito, che era anche il sassofonista della sua band, viene trovato morto sempre a Leeds, in un appartamento di Leeds, morto per overdose, stabiliscono gli inquirenti, e per Corinne comincia un periodo naturalmente tremendo. Sparisce dalla circolazione per un paio d'anni, fa letteralmente perdere le sue tracce. Noi restiamo, ci eravamo innamorati di quel primo disco e restiamo tutti un po' attaccati, no, a risentirlo, quella voce struggente che contiene la malinconia in se stessa che avete ascoltato pochi istanti fa. Poi finalmente la liberazione, un paio di settimane fa è arrivato il secondo disco, si chiama The Sea, il mare, è un disco dove naturalmente Corinne Bailey Ray fa prima di tutto i conti con se stesso, con se stessa, con i guai, i turbamenti, i dolori, le tragedie che stanno popolando insieme alle cose belle la sua vita, ma il disco recupera magicamente la qualità degli esordi ed è quindi la prima segnalazione che vi facciamo. Adesso ne ascoltiamo un po' Corinne Bailey Ray da The Sea. I don't want to give you up. I don't want to hold you up. I don't want ambiguous. I just know that I've had enough. I want you to travel with me. Get lost and let your mind go free. Show you things that you never see. But you just got to go with me. Oh, your love is so good that I wanna show. Corinne Bailey Ray, questa si chiama Closer, la canzone, e The Sea, l'album da cui è tratta, appena uscita, soprattutto che segna questo ritorno della ragazza di Leeds di cui si erano perse le tracce. Invece ci dobbiamo spostare un po' sotto, un po' verso la Francia, anche se poi lei è nata a Londra, insomma, ma è considerata a tutti gli effetti una ex ragazza. Ormai i 40 stanno per bussare anche per lei, una ragazza tipicamente francese per fisicità, per gusto, per approccio, per lingua prediletta. Stiamo parlando di Charlotte Gainsbourg, la figlia del grande indimenticato Serge Gainsbourg, il trasgressore per antonomasia del pop francese, perché poi lui era completamente trasversale, si occupava di tutto, si occupava soprattutto di essere se stesso, poi cantava, ricordate, cantava reggae in anni non sospetti, tra l'altro scriveva, faceva film, comparsate, era soprattutto, no, un epitome, una grande icona del maschio francese nella sua versione più affascinante e anche più irregolare. Charlotte ha raccolto buona parte di questa vocazione, a sua volta è diventata una ragazza inquieta, diciamo così, ha avuto una vita e anche una produzione multiforme, si è occupata da subito di cinema, ma poi ha cominciato a proporsi in modo sempre più interessante anche come cantante e scrive anche parte delle sue musiche. Del resto sua mamma era Jane Birkin, scusate se è poco. Torna ora con un nuovo disco che è il quarto della sua produzione, ma in realtà è il secondo di quelli seri, il primo l'ha fatto nel 2006, si chiamava 555, questo invece si chiama IRM, ha un partner d'eccezione che ha scelto, forse, lasciatemelo dire, per sostituire la figura del padre, perché ha scelto un altro irregolare con una certa vocazione un po' perdente, no? come il grande Serge. Si tratta di Beck, artista americano amatissimo anche dalle parti nostre, e il disco è un disco intelligente per antonomasia, molto misto, molto vagotonico, si sposta da un genere all'altro, sembra di sentir suonare Piero Piccioni in certi momenti, invece John Lennon in altri momenti, ma Charlotte continua a risultare quella ragazza curiosa, che ti incuriosisce, ti piace, vuoi sapere che fa, vuoi seguirne le tracce e puoi approfittare appunto di questo IRM, di questo suo nuovo disco. Lo ascoltiamo adesso, brano, uno dei più seguiti in questo momento di Charlotte Gainsbourg in questo album, si chiama Heaven Can Wait. Insomma, la sentite proprio, no? Che duetta con Beck, qui le voci sono una appiccicata sopra l'altra, quella di Charlotte Gainsbourg, quindi segnatevi questo titolo se vi ha incuriosito, se vi è piaciuto quanto avete ascoltato in questo anno d'oro di Charlotte. Pensate che solo pochi mesi fa ha ricevuto il premio come migliore attrice al Festival di Cannes, no? Era nell'Anticristo di Lars von Trier, altra roba bella estrema. Anche in questo disco segue delle strade del tutto inconsuete. Arriviamo alla terza voce femminile che vi vogliamo presentare in questo spazio di suoni di anni 10. Qui tutto si riveste un po' di malinconia, perché la voce in questione non c'è più, nel senso che la giovanissima Valentina Giovagnini, a soli 29 anni, in un incidente di macchina inesplicabile sotto proprio sulle strade di casa nella zona di Val di Chiana, è scomparsa un anno fa, poco più di un anno fa, nel gennaio del 2009, ma torna in circolazione un album che raccoglie tutta una serie di cose sue, fra inedite, outtakes, pezzi su cui aveva puntato, stava puntando, stava lavorando. Era una voce nuova di grandissima qualità in decollo nel panorama italiano, e ce ne sono tante, perché il femminile è sicuramente il genere che in questo momento è trainante nella musica italiana, soprattutto quando si tratta di qualità esecutiva, di capacità di proporsi per quello che si sa, di quello che si sa fare. Io vi ricordo che Valentina era stata a un Sanremo, no? Ha fatto una canzone, si chiamava Il passo silenzioso della neve, nel 2002, aveva avuto un ottimo successo, aveva sfiorato la vittoria nella categoria giovani, aveva vinto poi la Tatangelo, lei era arrivata seconda, c'era stato un primo album salutato con molto interesse dalla critica, e poi una carriera che si stava strutturando così passo via passo, anche con quella operosità un po' tipica, no? Anche di quella zona lì della Val di Chiana, e poi c'era una voce formidabile che nei videoclip o nei dischi che restano di Valentina Giovagnini possiamo per fortuna ancora ascoltare, e è esattamente quello che vi vogliamo proporre per fare, magari tardi, ma meglio tardi che mai, la sua conoscenza. Eccola qua, Valentina Giovanni. Per te l'altra metà. Anni 10. Figure. Nine Roman armies have been destroyed by Spartacus. Spartacus, dunque, 1960, altro che anni 10, esce questo film che fa sensazione, insomma, era in un certo senso il vertice creativo di un genere, poi volgarmente liquidato come peplum per prenderli in giro, no? Li chiamavano anche i sandaloni, insomma, c'erano tanti nomi per parlare dei film sugli antichi romani, come si diceva, ma questa era un'opera con delle grandissime ambizioni, soprattutto le grandissime ambizioni all'origine, poi non perfettamente concretizzate nel prodotto conclusivo. Si trattava di Stanley Kubrick, scusate se è poco, la prima volta che il maestro si misurava, tra l'altro, con la pellicola a colori e con un protagonista, soprattutto al tempo, assai ingombrante come Kirk Douglas, e con un cast poi ricchissimo: c'erano Charles Laughton, Gene Simmons, Laurence Olivier, Peter Ustinov, Tony Curtis, insomma roba da veramente mega produzione Universal hollywoodiana. In realtà poi c'erano tutta una serie di intenzioni, no? Nella storia dello schiavo che sfida l'impero romano, una serie di intenzioni sottese nella testa, nel cervello di Stanley Kubrick, e altresì nella testa del suo sceneggiatore, che non era uno qualsiasi, ma era Dalton Trumbo. Dalton Trumbo, perseguitato durante il maccartismo, in odore di forse di comunismo americano, certamente molto radical nella propria rappresentazione degli Stati Uniti d'America. Io vi ricordo sempre un misconosciuto romanzo firmato da Trumbo che si chiama Johnny prese il fucile, se vi capita di trovarlo da qualche parte metterci le mani. Ma insomma, fecero insieme questo Spartacus, che doveva contenere tutta una critica all'impero, all'imperialismo americano, pieni nella coda, no, di quegli anni 50 in cui si stava manifestando in modo così visibile, ma poi alla fine, per volere soprattutto la produzione, divenne una grande produzione hollywoodiana, con tanti primi piani della fossetta di Kirk Douglas, e un po' come tale è ricordato, una occasione mancata molto magniloquente, che fa parte comunque della storia del cinema, quello della grandeur, quello ormai un po' difficile da rifare solo per i quattrini che servono, però si può sempre rifare questo. You are destined for great and unfortunate things. The shadow of Rome is vast. And you will yet die under it, to the roar. Già da come calcano la mano nel dire le loro così scarne battute, avrete capito che l'aria è cambiata. Il tema, attenzione, è esattamente lo stesso, ovvero Spartacus. Ci risiamo, si chiama Spartacus Blood and Sand, sangue e sabbia. È una produzione televisiva americana che vedrete immediatamente sui nostri schermi, ed è un altro approccio alla vicenda dello schiavo che sfida il potere, che sfida Roma. Siamo tutti Spartaco, ve lo ricordate? C'è una produzione che si fa rispettare, è un nome che conta, Sam Raimi, però poi alla fine c'è soprattutto un'altra cosa, c'è 360, no? 300, scusate, il film in cui in un certo senso è stato ripensato in modo completamente diverso il mondo degli antichi e la sua visualizzazione cinematografica, è diventata una cosa imparentata con la moda, con gli effetti speciali, con quei controluce, quelle corazze che scintillano. Il Gladiatore è sembrato, dopo 300, un film serissimo, e con questo remake di Spartacus siamo esattamente da quelle parti. La storia è talmente forte e bella che non si poteva non rifare, ma la critica americana ha pensato ben più di quanto fece già con lo Spartacus di Kubrick, che non fu generosa all'epoca, ma qui, diciamo, ha calato, no? In senso molto da Spartacus, ha calato l'ascia. And now, to honor America, Academy Award winner and four-time Grammy nominee, Jennifer Hudson. Notte, se siete nottambuli, è notte di Super Bowl, capita una volta l'anno e l'evento, al di là dell'interesse sportivo, della vostra cognizione, delle regole, degli andamenti, delle tattiche e quant'altro del football americano, è interessante, come forse mai ben saprete, anche per motivi spettacolari, di show, di osservazione della società americana, no? Quella società che una volta l'anno, la domenica del Super Bowl, si ferma e fa tutta insieme, tutta la stessa cosa. Si mangia un hamburger, si beve una birra, si incontrano gli amici e si guarda il Super Bowl. L'infinito pomeriggio dura 4-5 ore lo spettacolo, fra il pre, la partita, il lungo, la mezz'ora di intervallo fra un tempo e l'altro e poi la conclusione, i festeggiamenti, i commenti e quant'altro. Super Bowl che è tra l'altro anche in questa sua versione 2010, che andrà in scena a Miami allo stadio dei Dolphins, si chiama il Sun Life Stadium, è considerato peraltro dalle autorità americane un evento di massima sicurezza, un National Special Security Event, verrà quindi sorvegliato dalle forze di sicurezza americane dopo l'attentato alle torri, con tutti i meccanismi di allerta ai massimi valori. Avrà come per il terzo anno consecutivo un vincitore di American Idol, ovvero il talent show americano, un po' l'X Factor americano, a cantare l'inno nel commovente momento di apertura. Tutta l'America si alza in piedi e in silenzio si sente, no? Prova a sentirsi ancora parte di una grande unità. Quest'anno toccherà a Carrie Underwood, quella che avete ascoltato da Jennifer Hudson nella versione offerta, bellissima, l'anno scorso dell'inno americano. In campo ci saranno due squadre così piuttosto sorprendenti, gli Indianapolis Colts e i New Orleans Saints. I primi hanno già vinto un paio di volte, i secondi sono dei debuttanti assoluti al Super Bowl, quindi una sfida non di primissimo piano, ma ripeto, è l'evento molto più della partita a contare. E soprattutto poi nello show, nel grande show all'intervallo, quando sarà da noi notte fonda, ma lo spettacolo si può vedere ben su tre canali in Italia: ESPN America, Rai e Dalia danno il Super Bowl. Arriverà un nome di eccezione, niente meno che gli Who, no? Pete Townshend and the Who suoneranno dal vivo per un quarto d'ora circa nell'intervallo. Hanno già fatto sapere che la scaletta sarà un medley dei loro grandi successi: Pinball Wizard, Bob O'Reilly, Won't Get Fooled Again, e tutto il meglio. E sicuramente il vecchietto Townshend comincerà a zompare su e giù per il palco a rallegrare gli americani in questa notte unica in un anno di Super Bowl. Abbiamo parlato di Steve Jobs, abbiamo parlato di riletture del giovane Holden, abbiamo parlato dell'autobiografia di Patti Smith, dei nuovi dischi di Corinne Bailey Rae, di Charlotte Gainsbourg, abbiamo parlato dello Spartacus televisivo, di un Super Bowl che incombe tra poche ore. Questo programma, questa puntata anche di Anni 10, la potete riascoltare in replica il sabato alle 23, la potete scaricare in podcast sul sito di Radio 24 alla pagina di Anni 10, ci potete scrivere via mail a anni10@radio24.it. su Facebook c'è un profilo per dialogare con noi che si chiama Anni 10, una pagina fan per ottenere i contenuti di ciascuna puntata e i link che vi possono guidare nelle ricerche. Io sono Stefano Pistolini, in regia c'è Alessandro Chiappini, in redazione Gloria Guerrera. L'appuntamento a domenica prossima alle 10 di mattina, sempre inoltrandoci appunto in questi Anni 10.